sé yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Per avere competenza dei mesti rituali, delle liturgie aziendali, non occorre lavorare in grandissime aziende. Molte volte basta anche una piccola azienda a conduzione familiare, in cui un capo particolarmente aperto e particolarmente affezionato ai suoi dipendenti stabilisce che in certi momenti durante l'anno lavorativo, che è scandito da intervalli liturgici come se fosse l'anno di un consueto e qualsiasi calendario, lui assieme ai dipendenti avrà dei momenti di aggregazione, di gratificazione, di riflessione. In cosa poi si concretizzano questi momenti di cui vorrei parlare questa mattina e già ieri annunciai su Facebook, avendo immediata e pronta risposta? Nella migliore delle ipotesi, nel panettoncino natalizio consumato assieme alla bottiglia di spumante. Io, se posso portare qualche mesta esperienza personale, ricordo in periodi in cui militai nei vertici di una grande azienda di servizio pubblico, l'accesso alla sala degli arazzi per il panettoncino e lo spumantino di Natale era riservato solo al top management, e per qualche anno c'ero anch'io. I manager di rango lievemente più basso sostavano apparentemente, per un motivo casuale, negli anfratti dove stanno le statue di fronte al Salone degli Arazzi, poi con una scusa alzavano il ditino e si infilavano dentro, già sentivano gratificati di entrare in quella sala dove normalmente si facevano conferenze stampa, presentazioni e via dicendo, apparecchiata con i camerieri con i guanti bianchi per l'occasione del bar dell'ultimo piano per il grande festino natalizio. Nei tavolini laterali si mettono pandoro e panettone tutti già belli affettati, pezzetti di torrone, cioccolata, bottigliette. Naturalmente nessuno poteva toccare nulla finché non faceva il discorsino il direttore generale. Io ricordo l'ultimo discorsino dell'ultimo direttore generale che mi sorbì fu nella mia mente già l'epitaffio funebre, perché disse: ricordatevi che voi dovete essere come i venditori di moquette della Brianza. Io dico: io il venditore di moquette della Brianza che c'entro? Sì, voi dovete essere come i venditori di moquette della Brianza e quindi dovete andare in giro con il vostro campionario di moquette, dovete cercare di venderlo e via dicendo. Dico: ma che c'ho più a che fare con questo? Comunque, detto questo, poi improvvisamente si poteva passare al buffet, tutti con la fettina di pandoro, di panettoncino, con il brindisi, tutti facevano capannello attorno ai dirigenti più baciati dalla fortuna politica di quel momento. Naturalmente io, insieme a alcuni altri dirigenti sfigati, casualmente capitati in maniera impropria in quel posto, se ne stavano agli angoli, facevano tappezzeria, cercavano di non mostrare al pubblico dei colleghi che li guardavano con disprezzo la loro emarginazione, quindi si fingevano accalorati su discorsi apparentemente importanti ma totalmente futili sul colore delle scarpe, su cosa si farà per Natale, sulla diarrea del bambino e via dicendo. O se no, gettavano un occhio democratico verso i dirigenti di grado lievemente inferiore e ne facevano filtrare qualcuno, o si mettevano a metà nella porta che scandiva, che era lo Stargate fra il top management e il management di rango inferiore, e stavano un po' così a metà, già pronti, diciamo, alla loro immediata segatura. Questo è uno dei rituali aziendali che io ricordo. Quest'anno, tuttavia, abbiamo pensato che sarebbe stato piacevole, diverso, ma soprattutto importante fare un passo avanti per sfruttare questo momento fuori dal lavoro assieme, non più per parlare di lavoro e stare assieme, ma semplicemente per stare assieme. Tutto questo ha lo scopo di favorire l'aggregazione attraverso i nuovi modi e motivi di incontro nelle città, promuovendo una cultura del benessere inteso nel suo significato più globale. Come sarà questa presentazione a questo evento di Luce Design, che si rivolge ad architetti, ingegneri, ma si dice che gli ingegneri siano tutti molto rigidi, molto... Pare che addirittura se ne stia interessando il WWF. La rete naturalmente è piena di queste testimonianze di rituali aziendali. Avevo un amico che stiamo rintracciando, ma si nega perché sa che rischia moltissimo, che per alcuni periodi della sua vita aveva come professione, era un videomaker, di andare in giro nelle trasferte delle grandi aziende, nelle convention, filmare per fare il videoclip poi da distribuire naturalmente fra i fortunati. Ne vidi di bellissimi, una grande società farmaceutica giapponese, venne il capo del Giappone con il capo della filiale italiana, e naturalmente era tutto in chiave di mistica samurai nipponica, quindi questo carciofone italiano gli hanno messo una sorta di piccolo kimono ridicolo che gli arrivava fino alla giacca, capito? Lo costringevano a fare urla la samurai e tutti battevano le mani, il giapponese parlava in giapponese e tutti contenti battevano le mani, sentivano tutti le signore come la signora Silvani quando va al ristorante cinese con, giapponese con Fantozzi, si mettevano gli stecchini in mezzo a capelli e salutavano con le mani giunte, dicevano sayonara e via dicendo. Meraviglioso. Altre volte mi raccontò questo ragazzo, che se poi riusciamo a rintracciare sarei contento di averlo, la sua viva voce contraffatta, che andarono a fare pericolosissime trasferte nei paesi dell'est, perché ultimamente sono nei paesi dell'est. Io stesso mandai mia moglie millantando un meraviglioso albergo che in realtà non esisteva, in una sorta di viaggio aziendale in Romania, mi telefonò distrutta perché l'hanno messa in un terribile albergo. Però in queste occasioni naturalmente c'è anche lo sfrenamento nei rapporti non consumati ma fibrillanti nell'aria fra colleghi e colleghe. Mi racconta questo amico che fu costretto a buttare via tutto il materiale girato in una di queste trasferte in terre lontane, perché era sin troppo palese nella scena del ballo collettivo in cui c'è questa democratica ascesa fra la plebe degli impiegati e dei dirigenti, di promiscuità fisica, di strip da parte di signore rispettabilissime dirigenti, in cui era sin troppo palese il fluttuare di flussi libertini e adulterini, che quindi tornare in patria con quella prova di ciò che si era consumato una trasferta aziendale era sin troppo imbarazzante. Dichiaro aperti i primi giochi aziendali. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Alla squadra prima classificata non saranno concessi né premi, né inni, né onori, né coppe. Viceversa, i partecipanti della squadra ultima classificata saranno tutti trasferiti nella nostra miniera di Sasso Stretto, frazione di Carbonia, e qui impiegati come muli da soma. 800240024, vi prego, raccontate dalla vostra viva voce, dalla vostra cruda testimonianza, la vostra carne martoriata, dal vostro ego calpestato, dalla vostra autostima fratturata, quelle che sono state le imposizioni, i rituali aziendali a cui nel corso della vostra vita professionale siete stati costretti. Io ne continuo a raccontare alcuni, ma ne posso citare altri. Sto vedendo sul profilo Facebook che c'è un pullulare di racconti. Naturalmente il panettoncino è al centro di tutti, i pandori, i panettoni, le colombe consumate per forza con gente che a volte disprezzi, dice Katia. Io lavoro per conto mio, dice Mark, con 8 operai. Sinceramente, quando riusciamo a sedersi tutti intorno a un tavolo per mangiare, è sempre una specie di festa. Giulia, non farmi ricordare gli obbligati festini di compleanno dello studio illegale dove lavoravo, che prevedevano sempre gli stessi vol-au-vent con wurstel, lo spumante, toast e i cestini cioccolato ripieni di mousse al gusto distrutto. Sì, anche poi il catering di questi festini aziendali è tristissimo. Ma vi è più tristerrimo è quando sono le stesse impiegate o gli impiegati che portano da casa i loro manicaretti, quando improvvisamente gli uffici perdono quella sorta di odorino di toner, di carta ammuffita, di polverina da scrivania, di ventola da computer surriscaldato, e viene fuori quell'odorino di cipolla, di soffritto, di olive ascolane. Ecco, cambia anche la percezione olfattiva del luogo di lavoro. Adesso vi racconto un'altra storia di cui sono stato testimone poche sere fa. Evito accuratamente di dire la località, la latitudine, il luogo e anche la fattispecie aziendale. Fu invitato da alcuni amici, dovevo fare una discussione, parlare di un i nostri progetti, via dicendo. Uno di questi dice: guarda, ti porto in un posto dove, se vuoi, c'è una piccola festa, c'è una ricorrenza di quel tal luogo di lavoro, è un grande magazzino, e il padrone del grande magazzino, il direttore, convoca tutte le commesse, le impiegate, gli impiegati in una specie di night dove fa una festa in loro onore. Andai, fu un momento mistico, una vera meraviglia. Dunque, naturalmente, commesse impiegate, chiuso il grande magazzino, velocemente sono portate in delle buste i vestiti da festa, si erano cambiate, erano andate nel settore trucco e parrucco, sono tutte belle riprofumate, rilavate, sottoascellate, via dicendo. Alcune avevano addirittura ardito dei vestitelli da matrimonio neri con scollatura sulle spalle, tacchi a spillo, autoreggenti, impapocchiamenti, bellissimo. Vado su in questo localino, con terrificanti luci che vengono dall'alto, e ai tavoli c'erano tutte soltanto donne, sì, perché il 90% erano donne, c'erano solo 3 o 4 fattorini e 2 impiegati e un piccolo manipolo di dirigenti, di top manager. Stavano tutte lì sedute, non sapendo che fare, musica, viene il complessino, comincia a suonare, a cantare, potevano ballare tra di loro, si buttano sul buffet, cominciano a mangiare, prendono piatti, si cominciavano a scrofanare. Finalmente, il momento clou della serata, si annuncia un grande spettacolo, si abbassano le luci, tutte queste signore lì fibrillanti, belle, carine, profumate, tirate, anche pronte forse in quella fatidica serata del loro cinquantennale, non so bene qual era la festa, quale ricorrenza, di concedersi, visto che il tepore della primavera incita a questi cedimenti, forse anche disponibili a uno strappo alla regola, e guardavano concupiscenti i 2 o 3 fattorini, unici maschi, che fingevano indifferenza, si tuffavano anche loro nel piatto di olive ascolane. Quando improvvisamente venne fuori quello che era l'intrattenimento pensato appunto dai direttori per le loro impiegate, una ballerina di danza del ventre. Fu un momento bellissimo, c'erano queste signore strette e strizzate nelle loro magliette, nelle loro panciere, nei loro carni opime, ma giustamente degne di onore e di attenzione, che si trovavano a confronto improvvisamente con una meravigliosa, carinissima fanciulla che aveva avuto 20 anni al massimo, nuda, sinuosa e esaltante nelle sue movenze di ballerina del ventre, che passava in mezzo a loro come per mostrare la terribile e atroce differenza fra le loro stanche carni di donne lavoratrici e le sue roride curve e bellezze muliebri da ballerina del ventre, che era lì per il piacere dell'occhio, e non si sa se soltanto di quello, dei capi che guardavano felici quello che era il fiore del loro harem. Circus Circus, giocoleria, fachirismo e fuoco, clownerie, artisti di strada, equilibrismo, prese acrobatiche, trapezio e tessuti. Ecco le attività che proponiamo per questo nuovo ed entusiasmante team building. Fun cooking. Che cosa può succedere quando un gruppo, per sviluppare e incrementare la propria efficienza, usa una cucina come laboratorio di crescita? Immaginate di utilizzare una cucina come laboratorio di crescita aziendale. Il lavoro viene svolto a squadra. Naturalmente, e fra un po' vi daremo anche testimonianza reale da chi svolge questa professione, c'è chi è specializzato nel team building, che sono quelle attività ludico-divertenti, coagulanti, che vengono fatte per sollevare il morale, per creare coesione e per dare un'occhiatina e capire come funzionano i rapporti fra i dipendenti, per stritolarli meglio e fare su di loro una maggiore pressione. Cinzia, buongiorno. Buongiorno. Andiamo agli spettacolini aziendali. Sì, sono terribili. Lei l'ha subito o li organizza? No, li ho subiti. Ecco, lo dica con particolari interessanti, se possibile. Allora, in passato, svariati anni fa, il top è stato un manager che si è presentato vestito da astronauta. Non mi ricordo però il contesto. Comunque scelgono sempre, diciamo così, avvenimenti che richiedono il coraggio, che richiedono una prestazione particolarmente impegnativa, per poi trasportarla in ambito lavorativo. Anche tu dovresti appunto avere questo coraggio. C'è stato, ad esempio... Infatti ho citato, visto il samurai, lei ha visto l'astronauta, è chiaro, sì. Certo. Oppure, ad esempio, le faccio un altro esempio, invitate delle persone che avevano fatto scalate nei grandi 8000 e quindi sempre fare il paragone appunto sulla loro, il loro grande coraggio, quello che dovresti avere tu per avere successo nel lavoro. Invece ci sono, sì, perché c'è sempre questa frase idiota che viene sempre: siamo pronti a nuove sfide. La parola sfidante, io mi sono fratturato le gonadi per anni a sentire dire questa parola sfidante, è molto sfidante, questo obiettivo è sfidante, non so cosa significhi. Continuamente. La cosa interessante è che sì, poi lo dicono persone che sarebbero capaci di mettersi a urlare, salire su una sedia se vedono passare uno scarafaggio, sfidante, lo dice sempre un signore sudaticcio in camicia bianca, che basterebbe dargli una scoppoletta sulla nuca per farlo piangere come un bambino. Comunque ci sono dei colleghi molto contenti di partecipare a queste convention, a questi team building, e quindi probabilmente fanno bene ad organizzarli. Che sono i lecchini, naturalmente. Certo. Cioè, il lecchinaggio aziendale ha la sua apoteosi in questi momenti. È chiaro. E la cosa veramente dura è sentirsi osservati durante queste attività imbarazzanti. L'ultimissima in ordine di tempo è stata una cena con Delitto, con degli attori che non le dico. Cioè dei cani? Dei cani. E c'è qualcuno che finge di divertirsi? Cavolo, è una cosa terribile. Io però devo sempre stare attenta per non mettermi in una situazione, insomma, negativa, ecco, perché a volte mi verrebbe da alzarmi e lasciare la sala. Io una volta ho visto una cosa terribile, adesso dirò, mi è venuto in mente, l'avevo rimosso questo ricordo, un affare del genere in cui mi costringevano ad andare e io naturalmente mi divertivo a osservare, cercavo di adeguarmi per quanto possibile perché dovevo mantenere dei bambini piccoli. C'è una specie di autocoscienza in cui tutti dovevano confessare davanti agli altri non so bene cosa. A un certo punto una signorina, probabilmente aveva già qualche problema, si mise a piangere. Disse: non valgo niente, sono uno schifo. Si mise a singhiozzare davanti a tutti. E gli altri tutti impassibili, come se niente fosse. E l'organizzatore lì, non so bene, l'aguzzino, la istigava a lasciarsi andare ancora di più. Una cosa che veramente ho i brividi ancora a pensarci. Francesco. Sì, grazie Nicoletti. Ora, chiaramente questo tipo di attività, abbiamo sentito prima chi le assolvide, ora ve le riferisco da parte di chi le organizza. Insomma, lei è un responsabile dell'organizzazione di queste cose. Non posso fare né nomi di aziende né altro, mi verrà già. Però mi confessa una cosa, mi dica la verità, non servono assolutamente a niente, vero? Come dice, scusi? Non servono assolutamente a nulla, non c'è un reale risultato. Certi team building dove i livelli di inautenticità sono come quelli riferiti, è vero che alla fine lasciano l'effetto di una bustina effervescente, o come pure per esempio ho rifiutato attività che abbiano a che fare con incitamenti pubblici e collettivi come quelli di chi si sbraccia con quel microfonato su un palco davanti a 400-500 dipendenti e fa quei public speaking oceanici che hanno nulla servono se non per aumentare nell'arco di 24 ore la temperatura, come giustamente diceva, così questa febbre da motivazione che si spegne l'indomani quando si ritorna in strutture così grandi, così anonimizzate, no? Quindi, dall'illusione che per una volta l'anno siamo tutti fratelli, tutti amici, vogliamo tutti bene, facciamo parte di una squadra, che poi alla fine la squadra, ma ognuno la squadra è per se stessa, la squadra, non è chiaro. Certo, è una visione un po' cinica, però esiste anche quella che sta dipingendo lei, allorché per esempio i dipendenti guardano il top management che ha dei comportamenti che sono incongruenti, non coerenti con quello che hanno predicato 48 ore prima, e quindi si sviluppa come risposta quella del cinica, e quindi dico che esiste anche questa, però non è vero che c'è solo l'individualismo sfrenato, ci sono forme anche di cooperazione in azienda, anche all'interno di Radio 24, di persone che fanno degnamente il loro lavoro, si scambiano informazioni, non sono gelosi della loro postazione, quindi c'è questo e c'è dell'altro. Io mi rifiuto per esempio di organizzare cose a base di, come diceva prima lei, cucina o altro che hanno un effetto secondo me aggregante ma di breve durata. Invece credo molto di più in una disciplina, però non è qui il caso di parlare, che ha a che fare con il team coaching, dove invece le persone veramente basano i rapporti e le relazioni su qualcosa di autentico. Però ma non quelle cose che si arrampicano sugli alberi, fanno percorsi di guerra, no. Perché le fanno anche quelle, me le sì, propongo. Giuro che le propongo da volte, però io ho un amico che è un maestro zen serio di un monastero zen, ogni tanto lo chiamano perché nella disciplina zen esiste la pratica del koan, è il maestro che ha un grosso bastone di bambù e dà bastonate in testa agli allievi mentre meditano, e pare che molte aziende siano felici di chiamare il maestro zen e farsi prendere a bastonate. Melog 2.0. Amleto. Due sono le caratteristiche principali del lavoro che si svolgerà. In primo luogo, i partecipanti non partono dal testo, ma dal corpo, dal movimento. Infatti, si lavorerà proprio sull'uso del movimento per creare improvvisazioni singole e di gruppo e creare così un teatro dove è l'azione che comunica. Mystery. Un pomeriggio o una cena passati in compagnia del mistero. Divisi in team, i partecipanti dovranno scoprire chi è l'assassino. I partecipanti assisteranno ad una rappresentazione di tipo teatrale di indagini che vengono effettuate a seguito di un crimine. Queste sono reali attività aziendali che vengono proposte da un sito specializzato nel team building, di cui poi naturalmente sentiremo il responsabile. Sono tutte fantasiose e divertenti maniere per creare o rafforzare i legami sottili fra i dipendenti, dare un senso di missione al loro lavoro quotidiano e probabilmente, ma questo lo dico io perché sono malizioso, avere delle leve più profonde di gestione, alias di pressione sui dipendenti da parte chi poi deve vederli anche in momenti di perdita del totale controllo che si ha normalmente durante un'attività lavorativa. Vedere un proprio dipendente correre con le mutande in mano dietro a una collega naturalmente poi dà degli strumenti di gestione molto più efficaci su quello che sarà il suo rendimento. Giuseppe da Milano, buongiorno. Buongiorno. Volevo raccontarvi, allora io noleggio limousine a Milano e un giorno mi chiamano perché serviva una limousine su un set di un film che stavano girando, no? Non mi danno molti dettagli, però vabbè, l'appuntamento è quello presso degli studi televisivi e così via. Io mi presento e questo film in realtà è una manovra di team building, cioè un'azienda che per fare team building cosa fa? Fa girare un film ai propri dipendenti, no? E ci sono un po' tutti, impiegati, dirigenti, cioè tutti esaltati ovviamente. Tutti ma per poi ricattarli per tutto il resto della loro vita aziendale naturalmente. Probabilmente. Fatto sta che comunque secondo me l'idea non è stata delle più geniali perché io mi Lei ha assistito al set, ha visto cosa stanno girando. E cosa mi racconti qualche episodio? Poi si è entrati un po' in confidenza, allora cosa accadeva? Il dirigente geloso di quello che aveva il ruolo principale, lui invece era solo una come comparsa. Le recite a scuola alle elementari, che torna al figlio, mamma, fanno fare cappuccetto rosso a lei, a me mi fanno fare, che ne so... La nuvoletta. È una cosa stupidissima. No, ma il massimo fu quando poi ci fu una scena... appunto c'è questo personaggio che appunto scendeva dalla limousine e poi si dava un bacio con questa donna e allora tutte le colleghe intorno, ma tanto quello qui bacia lei, ma di giorno va a fare la pausa pranzo con l'altra e la moglie scema che lo sta ad aspettare, cioè guardi, gli intrecci aziendali poi è la cosa più affascinante. Io guardi, sono stato in un'azienda con una lunga storia, quando per la prima volta dentro la RAI il palazzo di vetro di Viale Mazzini, il vero problema dei dirigenti che venivano da luoghi ben più discreti era di mettere gli armadietti contro le finestre di questi open space modernissimi, erano negli anni 70, per continuare le loro attività di abuso impiegatizio delle maestranze femminili, quindi figuriamoci, in vita nozze, voglio poter parlare le ore di quello che accadeva nei corridoi dopo gli orari d'ufficio. Comunque lì si sviluppò veramente l'apoteosi del motivo per fare scandalo e pettegolezzo. Ci fu di tutto, mi sono divertito quindi, più io di loro. Quindi credo. Conferma la mia idea che alla fine girare questi filmetti è una sorta di autocoscienza che alla fine lascia tracce indelebili delle transumanze truffaldine e sentimentali nei luoghi di lavoro e quindi dà degli strumenti di forte coercizione da parte di chi tiene in mano la regia del filmetto. Antonio da Vicenza. Ah sì, prego, continua, no, l'ho interrotto. Forse la mentalità è quella di dire noi abbassiamo tutti allo stesso livello, ci possiamo permettere di prenderci tutti in giro, quindi siamo tutti amiconi, invece poi alla fine non è così. No, è una maniera per spezzare le reni in maniera molto più efficace, quando uno si rilassa poi è ancora più forte la delusione, capito? È bruttissimo questa cosa qui, però accade, fa parte degli atroci momenti della vita professionale. Antonio, provincia di Vicenza. Buongiorno. A lei cosa è accaduto? Pronto? Sì, l'ascolto. 10 anni fa sono stato protagonista di un evento che mi ha lasciato rabbia, divertimento solo oggi, un senso di colpa che ancora provo ogni tanto. Un compagno di università che giudicavo brillantissimo all'università mi chiamò dicendo che c'era un'occasione molto molto interessante di business, di conoscere nuova gente e di aprire una nuova attività. E che vendevate? Dovevo... Prego? Di cosa vi occupavate, per capire la ragione commerciale? No, eravamo mondi diversi, mi aveva contattato dopo anni, dopo l'università. Mi propose questi due giorni, io per stima della persona accettai senza nemmeno chiedere troppo, anche perché sembrava una cosa un po' misteriosa, però ho detto, questo ragazzo è molto in gamba, proviamo. Arrivai in un albergo, per fortuna ho insistito ad andare con la mia macchina, arrivai in questo albergo e tutta la mattina la passai in una riunione con una cinquantina di persone, forse meno, in cui c'era una specie di team leader che tirava fuori delle fotografie di una 500 e di una Ferrari, urlava, voi cosa volete, la 500 o la Ferrari? Ah, e tutti facendo la ola rispondevano la Ferrari. Voi volete la vacanza a Jesolo o in Costa Smeralda? Tutti facendo la ola rispondevano la Costa Smeralda. Io mi vergognavo come un ladro per due motivi: uno, perché non avevo il coraggio di fare la ola; due, perché mi sentivo snob perché non facevo la ola mentre tutti la facevano. Insomma, giustamente non sapeva che farsene della Ferrari, poi bisogna mantenerla, quello è il problema, nessuno si pone il problema. Ma soprattutto è una gran bella macchina, ma se oggi mi regalasse una Ferrari mi metterebbe un imbarazzo, non saprei nemmeno dove metterla, che ci faccio? Anch'io. E comunque il mistero però continuava, perché non riuscivo a capire perché eravamo lì. A mezzogiorno, durante la pausa pasto, eravamo fuori, tutti fuori, arriva una Bentley bellissima, con però l'adesivo di questa ditta, che aveva organizzato questo meeting, e scende questa persona che sembrava una persona mistica, perché tutti si avvicinavano con venerazione. Il grande venditore era. Era il grande venditore, bravissimo. Ma io la so esattamente, perché poi gli dico anche perché so tutto di queste cose qua. Vendeva sapone alla fine. Mi mandavano a vendere saponette alla fine, il problema era quello. Assicurazioni di una grande assicurazione. Assicurazioni o saponette, sì. Questi sono quei sistemi di vendita piramidale. Ci beccarono una volta un'amica mia, gli rovinarono la vita. Lei andava a vendere saponette. Ti portano in questi luoghi. Arriva poi il grande venditore, quello con la Ferrari. Ti dice che lui ha cambiato, ha mollato il lavoro, ha avuto grandi fortune. Gente si è licenziata dalle loro modeste ma sicure professioni per andare a vendere saponette, sperando di avere la Ferrari, la vacanza in Costa Smeralda, le donne meravigliose, trovata con una mano avanti e una dietro, perché la Bentley è sicuramente affittata, il grande venditore è l'unico che guadagna qualcosa, è tutto dato dal fatto che la gente acquista la merce, poi deve venderla amici, parenti, suoceri, nipoti, se non la vende si è presa a carico della merce, ma i soldi già sono in giro e si riprende naturalmente l'affittuario della Bentley. Marcella da Milano. Marcella. Buongiorno, io invece volevo raccontare un'esperienza inerentemente al team building. Nel cambio di dirigenza che c'è stato nell'azienda per cui ho lavorato fino all'anno scorso, il nuovo direttore vendite ha costretto a partecipare a una specie di campo paramilitare nell'agro pontino, nella palude pontina. Quindi, adesso è bonificata la palude pontina, cioè sono passati i tempi di Santa Maria Goretti, ormai è bonificata, è un posto qualsiasi, non c'è più la palude. Non so se delle aree protette, di riserva. È un parco. Sì, esatto, nel parco. Comunque vanno buttato nel posto peggiore che possa esistere da quelle parti, naturalmente. Credo proprio di sì. In mezzo alle zanzare e agli insetti di ogni tipo, si è stati costretti a costruire dalla zattera per attraversare un lago, un laghetto mare odorante, puzzolente, in cui sono caduti più colleghi, a passare su ponti tibetani, insomma, comunque a... Ma chi faccia, dovete andare all'Isola dei Famosi poi, qual era lo scopo finale? Lo scopo era il team building, non so in che modo, perché si era diviso soffrire a squadre e tutti bisognava collaborare alla costruzione della zattera, al passaggio sul ponte tibetano, a reperire gli elementi che servivano poi per costruire una specie di canotto con cui attraversare questo lago, remare tutti assieme in un certo modo, altrimenti l'imbarcazione che era imbarcata. E poi basta, siamo tutti a casa buttando via gli abbigliamenti che abbiamo dovuto utilizzare, perché comunque erano tutti sporchi, infangati, deteriorati, strappati, persone che remando si sono tirati colpi di hanno tirato colpi di remo al vicino, facendolo cadere in acqua con un trauma cranico. Era obbligatorio questo? Era obbligatorio, sì. Io devo dire obbligatorio, che nessun contratto di lavoro può prevede che ci sia l'obbligo di andare a fare il percorso di guerra. Scusi, vanno fatto credere che era obbligatorio, nessuno poteva obbligare. È stato venduto come un aspetto di formazione per il team building. Allora, a questo punto mi sospendo un attimo e sentiamo il primo vero grande esperto di team building, che è il signor Giuseppe Buttafuoco, che organizza team building, è il titolare del sito BG Building, da cui abbiamo preso tutte le informazioni, le clip che abbiamo appena ascoltato. Giuseppe Buttafuoco, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Nicoletti e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Stiamo dando un'immagine troppo devastante di quello che è il team building. Riequilibri se pensa che sia il caso, guardi, la questione. Devo dire che ascoltandola e ascoltando queste testimonianze, devo dire che c'è veramente molta incompetenza. Hanno sbagliato partner. Nel mercato del team building ci sono tantissime agenzie che si improvvisano. Sto sentendo delle cose veramente impressionanti, tipo quest'ultima persona che diceva l'obbligatorietà e che poi gli hanno portato in un laghetto. Ma può dove essere questo? Veramente era. Sì, allora facciamo una precisazione intanto sul team building, perché moltissimi all'interno di questa parola mettono all'interno un po' tutto. Allora, il team building intanto in Italia è arrivato non da tanti anni, però devo dire che sta crescendo fortunatamente per noi che lavoriamo nel settore. Quando gli americani che l'hanno inventato non lo fanno più, è arrivato in Italia, qualcosa del genere. No, assolutamente, e effettivamente arriva dagli Stati Uniti, nel nord Europa è molto molto diffuso e in Italia è in forte crescita, tant'è che viene utilizzato, ecco la prima precisazione, viene utilizzato sia come valenza formativa che come valenza ludica. Fino adesso abbiamo parlato della valenza ludica, però viene molto molto utilizzato anche come nella parte formativa, quando viene associato per esempio ad un'analisi dettagliata dei bisogni dell'azienda, quindi con una fase anche strutturata di debrief, oppure può avere una valenza ludica qualora l'obiettivo sia quella di far divertire il gruppo, per esempio come nelle testimonianze che abbiamo come che una abbiamo gita ascoltato. Scolastica, ecco, qualcosa del genere. Melog 2.0 Olimpiadi aziendali. Vi ricordate i giochi senza frontiera? Divisi in squadre per una giornata sportiva, ma non troppo. Ogni team dovrà ad ogni gioco cercare di totalizzare il maggior numero di punti per migliorare la capacità relazionale di tutti i componenti di un team di lavoro. Orienteering. La gara è praticamente una campestre, dove però i concorrenti o le squadre, partiti uno per volta a distanza di alcuni minuti tra loro o insieme variando i percorsi, con l'ausilio di carta e bussola, devono raggiungere nel minor tempo possibile il traguardo, passando attraverso un insieme di punti di controllo chiamati per convenzione flag o lanterne. Ci stiamo preparando con Fabrizio Intonti, Valerio Rocchetti, il professor Chiappini e anche noi al nostro team building. Chissà cosa ci stanno preparando di bello. Velocemente, Monica d'Alessandria, ho visto che aspetta da molto tempo. Chiedo scusa, ma mi era scorsa la videata del computer. Monica. Buongiorno signor Nicoletti, buongiorno. Guarda, innanzitutto volevo fare una piccola battuta, se lei l'accetta. Siccome non l'accetto, però la faccia. La faccia, io sono l'ascolto dai suoi primissimi tempi alla radio, anche se sporadicamente, perché principalmente faccio sono mamma, ecco, non faccio. E la mamma non impedisce, scusi, essere mamma non impedisce l'ascoltare la radio. No, anzi. Tutt'altro, mi ha aiutato moltissimo in questi anni, anche in momenti di veramente duri. Facilita la procreazione. La depressione, veramente, ascoltare lei mi ha sempre dato un'analisi lucida dei vizi e virtù della nostra terra. Quindi, italica. Diciamo che sono una terapia per la depressione postpartum, questo vorrebbe dire. Ci sono stati dei momenti, guarda, come stamattina dico no, adesso chiamo, e che è la mia prima volta che chiamo come quelli. Vada al punto, sennò la devo segare, forza. Allora, io dico a tutte queste persone, siccome prima ho lavorato anch'io come dipendente, l'importanza di farsi rispettare. di farsi rispettare, che è una virtù che ormai sembra passata di moda e che oggi ha praticamente come sinonimo l'essere deboli, no? E quindi dico, ma insomma siamo tutti appunto acculturati come qualcuno che è laureato e dico, ma lei voleva però raccontare una schiavitù aziendale che ha subito, cosa ha subito? Sì, naturalmente i primissimi anni studiavo e lavoravo e mi sono trovata chiusa in un ufficio con una capo ufficio di quelle vecchio stampo. Io praticamente ho portato l'innovazione negli anni 90, sono arrivata io giovane e il computer, per cui mi ero stata costretta a fare tutta la gestione amministrativa a mano ancora, quindi questa cosa non è stata accettata e comunque io non per un po' di tempo giovane ho detto mantengo questa situazione perché mi servivano i soldi per studiare, ma dopo con una non solo ribellione dentro di me ma mantenendo sempre la mitezza ho lasciato perdere, ho continuato. E beh, non hanno fatto le prove della morte, era semplicemente un caso di piccolo e blando e antiquato mobbing aziendale, non, nulla a che fare. Il team building è una cosa strutturata, organizzata e si fa per il bene del lavoratore, non creare lui dei problemi. Giuseppe Buttafuoco, ci eravamo interrotti con lei che organizza team building, il suo sito è BG Building, e ci stava dicendo che in realtà c'è maniera e maniera per organizzare queste attività dal suo punto di vista. Esatto, la prima fase diciamo è ascoltare bene quello che il cliente, quello che l'azienda chiede, perché come dicevo prima ci sono molti che sono improvvisati in questo tipo di lavoro. Bisogna ascoltare bene il cliente, quello che è l'esigenza dell'azienda, che tipo di fase sta passando l'azienda e quindi in base a quello si studia il tipo di programma. Il team building, come dicevo prima, può avere due tipi di valenze, sia quella ludica o quella formativa. Quella formativa viene spesso richiesta dalle aziende perché mentre in passato la formazione era una formazione che veniva fatta in aula. Una formazione fatta in aula ci riporta un po' all'idea della scuola dell'obbligo. Sì, ecco, viene ecco da abbassare qui, le appunto, palpebre, certo. Ecco, noi che cosa associamo spesso e volentieri anche le persone che partecipavano tanti anni fa a questi corsi, spesso e volentieri magari trovavi anche quello che si addormentava, no? O comunque non partecipavano attivamente. Ecco, ah certo, allo zatterese è impossibile addormentarsi. Infatti, dove entra invece il team building come formazione esperienziale, perché dà la possibilità di fare esperienze utili, formative a contatto per esempio con la natura nel momento in cui la facciamo outdoor, non necessariamente deve essere un'attività sì, fatta ma questa outdoor. Sottile venatura di massacro che emerge chiaramente da chi ha fatto questa esperienza, è formativa anche questa, diciamo, una situazione estrema, è la metafora della situazione estrema in cui bisogna, non so, forzare il mercato, raggiungere un obiettivo di produzione, via dicendo, si lavora sulle metafore. Si lavora sia sulle metafore, si lavora un pochettino su tutto quello che la situazione richiede. Ci possono essere delle situazioni in cui, faccio un'ipotesi, in quest'ultimo anno stiamo lavorando tantissimo nonostante ci sia un periodo di crisi e quindi, come lei ben sa, le aziende tagliano, ma tagliano soprattutto nel marketing o purtroppo, ahimè, stanno tagliando moltissimo nelle risorse umane. Il team building, diciamo che il mercato sta ponendo alle aziende delle richieste abbastanza critiche, no? Quindi c'è crisi anche, cioè tagliano anche nella formazione oppure la formazione rimane comunque un settore in cui gli investimenti dell'azienda... No. Nella formazione esperienziale no, perché secondo me il miglior modo per affrontare periodi di crisi è il lavoro di gruppo, la compattezza di tutto il team e l'idea che comunque che insieme tutto è comunque possibile. Questa è l'idea del team building. Poi noi abbiamo un modello che si basa sulle 3T. Il modello del team building, team working come Cremona, praticamente la città di Cremona pure ha un modello basato sulle 3T. Poi se sono le stesse, condivido. All'inizio lei stava aspettando quella telefonata di quel suo amico e diceva che aveva fatto diversi videoclip in giro per il... Io ne posso raccontare tantissimi di questi episodi. Io li ho visti, sono irraccontabili, le giuro, guarda. Perché? Soprattutto con le Russia sul ghiaccio. La fortuna di accompagnare tantissime aziende in giro per il mondo durante appunto questi viaggi aziendali, girando videoclip, occupandomi della parte appunto di team building, di intrattenimento, però in questo caso qui durante i viaggi, ecco per esempio una precisazione, durante questi viaggi di incentivazione sono delle attività diciamo prettamente ludiche per cercare di creare, detto proprio in maniera molto semplice, una famiglia. L'azienda è quello che richiede durante questi viaggi di incentivazione, poi chiaro, bisogna vedere un pochettino su ogni lavoro, penso. Quindi non bisogna vedere anche, onestamente, bisogna anche vedere se a un essere umano basta la propria di famiglia o deve necessariamente accollarsi anche il peso di una famiglia aziendale con colleghi puzzolenti, colleghe rompiscatole e capi che si odiano. Sentiamo un attimo Alberto. Alberto, buongiorno, velocemente. Buongiorno, buongiorno. Volevo raccontare l'esperienza che ho avuto partecipando a una convention aziendale anni fa, quelle convention tenute da consulenti esterni, sa, quelle società che hanno la propria ragione sociale, sempre il termine consulting, e al termine di queste due giornate c'era da fare in aula il classico giro di tavolo dove ogni collega esprimeva il proprio punto di vista. Una ventina di colleghi, ognuno cercava di trovare le parole adatte che non fossero identiche a quelle del collega che l'aveva preceduto, finché naturalmente tutti magnificavano la validità dell'esperienza. Finché arrivò... Una grande esperienza, siamo molto felici, ringraziamo il direttore che ci ha dato questa possibilità, questa opportunità unica di poter fare gruppo. E alla fine cosa ha detto questo qua? Alla fine ci fu un collega che in milanese si espresse, poi do la traduzione, che disse testualmente, rivolto al titolare che teneva il corso, disse, i truana bella tetta dei shishavi alter, avete trovato una bella tetta da succhiare voi altri, esprimendo rivolto naturalmente ai consulenti esterno che aveva organizzato il corso, esprimendo così un giudizio che tutti dentro di sé avevano formulato ma che nessuno aveva osato esprimere. E naturalmente questo signore che si espresse in milanese fu immediatamente segato e oggi starà lì a zappare il suo orticello pensando che forse sarebbe stato meglio tenere la bocca chiusa. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.